giornata di sciopero contro il carovita e che incidenze, quale peso può avere sull'economia italiana? La Confesercenti vi risponde che la giornata di domani è un po' in boicottaggio in relazione alla ripresa economica. Noi vogliamo mettere in piazza innanzitutto tutta l'insoddisfazione delle famiglie italiane per la situazione che si è creata, del disagio, le famiglie non ce la fanno più arrivare alla fine del mese, il loro potere d'acquisto, e lo stanno a dimostrare anche la caduta verticale dei consumi, dei saldi, la rovinosa stagione turistica. Ma proprio per questo motivo il fatto che la gente, non avendo a disposizione risorse, non compra. Ecco perché bisogna dare una svolta radicale in termini di politica economica per far sì che, modernizzando i settori laddove abbiamo le più alte tariffe europee, si possa appunto arrivare alla riduzione delle stesse. Non si capisce perché l'elettricità, il gas, tariffe assicurative e dei servizi bancari siano le più elevate d'Europa. Ma poi chiediamo anche nella nostra piattaforma delle proposte assolutamente, diciamo così, congiunturali, che possono dare immediato ossigeno alla possibilità di acquisto delle famiglie, e che sono la riduzione delle accise sui carburanti, il fatto di parificare l'IVA sul gas combustibile domestico, la restituzione del drenaggio fiscale. E poi siamo proprio perché si facciano accordi interprofessionali con i commercianti per arrivare a un contenimento e addirittura, anche noi diciamo, a una riduzione dei prezzi, così come è stato fatto in Francia. È così che non si boicottano le cose, ma anzi si dà una mano a rilanciare i consumi e a rilanciare l'economia. E stavolta sono proprio in netto dissenso con le cose che dice Marco Venturi. Poi, a proposito della crisi economica e anche del carovita, spesso si fa riferimento a una situazione di crisi economica internazionale, si allarga il discorso a quella che è la situazione dei mercati e del mercato globale, e come causa anche, no, della crisi economica del nostro paese. È vero che ci sono problemi a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda il prezzo internazionale del grezzo, che così ha ricadute negative su tutte le economie. E però non è vero che alcune economie non vanno bene, basterebbe citare gli stessi Stati Uniti e l'Oriente, l'Estremo Oriente, o la Cina e altre nazioni ancora. Là i tassi di incremento sono piuttosto elevati. Il problema vero è che noi non riusciamo ad avere invece una politica economica, sia intanto di controllo e verifica delle cose che stanno facendo chi vende beni di largo consumo sul mercato interno, ma sia anche su tutte le manovre anomale che sono state messe in campo per poter speculare sul cambio della nuova moneta, il cambio lira-euro. Ecco perché noi diciamo che insomma ci vuole un'azione energica del governo, che si dia da fare, perché sono anni che è tutto fermo nei processi di modernizzazione e quindi anche di competizione che abbatterebbero le tariffe, e sia anche di modernizzazione e di rapporti completamente nuovi tra le varie filiere produttive, quelle imprenditoriali, quelle del commercio, con i consumatori. Ecco, torniamo alla giornata di sciopero di domani, giovedì 16 settembre, una giornata che si traduce in alcune azioni e dei comportamenti, un rituale, diciamo così, che voi suggerite. Gli acquisti si possono fare o il giorno prima o il giorno dopo, e poi si possono dare segnali molto forti di insoddisfazione, che sono segnali anche simbolici. Non si vada dal parrucchiere se si deve fare uno shampoo, non si vada a un cinema, non si vada in una discoteca, non si compri nulla, perché si può anche comprare, lo ripeto, il giorno prima o il giorno dopo. Si eviti di utilizzare gli hi-fi di casa o il telefono, lo si utilizzi in maniera molto, molto parca. Ecco, insomma, si possono fare tante cose, si facciano qualche passeggiata in più, si legga qualche libro e si conversi con gli amici, che insomma si riscopra anche il piacere di stare insieme e di fare cose che generalmente non facciamo. Insomma, bisogna dare un segnale forte. Io sono convinto che le famiglie italiane siano tutte con noi, al di là poi della partecipazione reale che potrà avere lo sciopero di domani.